Da una donna e altre fontane, mistero. Nella prima fossa metterò la mia anima. La impasterò con acqua e farina. Nella seconda fossa la modellerò. Dalla terza fossa prenderò altra farina. Dalla quarta, con le mie mani aspergerò l'acqua. Nella quinta fossa accenderò il fuoco. La sesta è una pietra calda. La settima fossa è il forno tandir. Così preparo il mio pane, Yuatska. Vieni alla mia tavola. Da Poesia per A, Languana Salva. Io sono. Non sono una donna sapiente, non sono neppure una donna saggia, io sono una donna selvatica. Languana Salva. Senza sottana, senza sottoveste, sulla strada, un incubo o non piuttosto una premonizione del fallimento d'amore che sarebbe stato incontrarti. Incontrarsi. Fallimento d'amore a mezzo del cammin di questa vita all'amore dedicata è sempre fuori legge, sempre sfuggiva. Nel costringersi dei tempi, l'amante or ti vuole e china a cucirgli lo strappo. Poi, nella cura del figlio, ti celebrano disfatta, nulla ricordando della guerriera. I misogini ti zittiscono per massaia, come se non fosse scelta, come se non fosse amore. Peggio, non ascoltano, peggio, negano di aver sentito fallimento d'amore. Al per favore subentra il silenzio, al silenzio lo spregio. Il silenzio, questo strumento aureo trasformato in arma da guerra. Così Languana si invola prima d'essere ammazzata. Fallimento d'amore. La tirano alla festa, le imbandiscono un carro dentro cui han piazzato la trappola. Mai mi hai voluto seguire. Mai promisi che ti avrei seguito. Ora, truffati, ci sentiamo l'un, l'altro da noi stessi. Ognuno ha il suo deserto e tu sei il mio. Io che persi libertà me la ritrovo intatta. Tu che mi avevi, mi hai perso. La sequenza del distacco è una via crucis cui Languana soggiace come rana in mano ai bambini. Tenta di volare, ma l'hanno legata al camino, trasformata in pietra di focolare, spento. La sudicia pezzuola gettata sul viso, la costrizione al domestico è l'anticamera dell'esecuzione, mentre il tribunale familiare tutto imputa. L'aver troppo nutrito, l'aver affamato, negando e affermando insieme, per ciò che sfugge al controllo si invoca la pena capitale. Tutto scontiamo, quel che siamo e quel che non siamo state. La dannano a pazzia, dicendola pazza, impedendole il sonno, vigilano a turno che dorma. A Languana chiedono estingua il debito contratto per i doni che fece, negando e affermando insieme. Ma Languana è salva! Sorge dal rio di alghe putride, si solleva a mezzo dall'acqua. A volte ha in mano un fazzoletto ricamato, segno del pianto e della schiuma dell'onda. Languana sogna ad occhi aperti, costretta in angolo in altra dimensione, cura il suo giardino, selva meravigliosa. Sapessero cosa le schiave pensano di loro, intuissero la stima e il patto nell'eleggerli a compagni. Stimassero le madri, non perché schiave, diverso sarebbe il mondo, ma mai onorano il tributo dell'anima. Solo prendere ed erigersi sui podi come altari sulle tribune, masticano il seno. Celebrata la festa, tornano sordi e muti. Fallimento d'amore. Avvelenare potrebbe, invece resta, mani nell'acqua, a risciacquare avanzi. Tanto si è librata in alto che nel fondo della caduta incontra l'Aleph, perché è suo potere trasformare la nebbia in oro. Fallimento d'amore lei trasforma in luce. Che per questo ebbi in dono i miei poteri, per difenderci. Hanno paura della notte se ti associano alla luna, prima o poi sai come va a finire. trasformano le cataste di luce in roghi. Il domenicano che l'interroga è riuscito a portarla all'odio. Fallimento d'amore. Quando le schegge mi trapassano, sola mi strappo la pelle, non ho bisogno di chirurghi o droghe. Solo per nutrirsi si portano la mano alla bocca. Dov'è l'altra? La tengono stretta tra le gambe. Fallimento d'amore. Pensa a salvarti, tutto quello che hai costruito è vano. Le rinfacciano assenze per quante volte lei abbia giustificato, e donne vi si insinuano in modo che l'uomo, aduso a rinnegar matrice, vi trova complemento. La fan sentir d'intralcio. Parole d'amore, come girini d'estate disseccano in pozze prima di diventar rane. Che beneficio al lago, malsana culla di insetti e pesci affamati divorandosi l'un l'altro dopo che hanno ucciso gli angeli. Pur se son questi i prezzi da pagare, l'anguana è salva. I figli, costretti ad assistere alla distruzione della madre, e quella zitta deve stare per non ferirli. Tutti in ostaggio, tanto più urlano, quanto più i bimbi son piccoli che si spaventerebbero. Di notte l'anguana pettina i suoi figli. Tutti stupiscono siano così belli. In guardia dovranno stare perché per quelli sono figli d'anguana. Osservano gli estranei quel che avviene. Tacciono senza dar testimonianza. Il teatro umano li diverte, li distrae da se stessi. Fortuna che la notte è lunga e la luna sorge per ciascuno di noi. E così il sole, nel fresco mattino, le dedica i suoi raggi. Non san condurre il carro, ma tant'è, a loro basta. A ciascuno il suo sacco di farina e va a casa sua. Fortuna che la notte è lunga e la luna sorge. Così il sole, nel fresco del mattino, le dedica i suoi raggi. E Dio? Ah, Dio! Scettico anch'egli, non si mischia e attende. E nel canneto le passa ambisce tra le gambe. Immemore il corpo di quello che fu caldo amor carnale. Chiusa è la porta, pur se per sempre s'era giurato amore. Fallimento d'amore. Rimproverano la sua stanchezza senza vederla, non più reggendo per sfinimento. La tengono in conto di vecchia. Con condiscendenza le spiegano ciò che lei ha insegnato, perché l'umano è immemore di ciò che riceve. Zitti d'ira, in un angolo, o con il pugno sotto al naso, sputano il loro odio tracimando bile dagli occhi solo perché è libera. L'anguana cura gli animali dei pascoli, non meno che le bestie di stalla, non essendo né di quelli di mezza costa né di quelli delle valli. Ciascuno dice non è dei nostri e la tiene per nemica. Alto o basso che sia il monte, lei sta sulla cima, sulla parte impervia del dirupo, terreno di caccia, il selvatico. Consegnato per dogma a essere dominato, demonio per chi elegge, figlio di Dio, se stesso. Nell'umano contendersi, ogni risorsa del bosco, non essendo né degli uni né degli altri, per tutti l'anguana è di nessuno e di tutti. Un uccello libero, dunque le si può sparare, le trappole tendere per sezionarne le membra negli scannatoi. Ah, pascoli, dove dallo sterco di pecora nasce il croco, l'uovo del mondo. Ma quale che sia la sua forma, quale la morte che s'è data, quale il regno che ora abita, l'anguana è salva. Salva, salva! Rispetto alle piante dove le formiche allevano le loro piccole grasse mucche, rispetto alle uova e al nido, ospitalità al cervo ferito. Questo è il Vangelo dell'anguana, il lieto annunzio, la manna, l'ambra, l'alfa, là. L'anguana è salva, ma il suo cuore? Una pietra nera. Della comune impresa lui s'appropria impietosamente, continuando a rinfacciare assenza. Donne vi si insinuano, aduse a rinnegar matrice, con fredda sorpresa, con finto stupore fan cadere la sua benedizione. Pur se son questi i prezzi da pagare, Languana è salva. Salva! Da Canti per le beate genti, I cacciatori e la donna serpente. L'albero, il sasso, l'acqua e la fonte, sosta Languana vicino al ponte, la serpe l'avverte del rischio vicino. Scappiamo presto dall'assassino, spari e forconi per nuovi orrori. Da valle salgono i cacciatori, di cervi e camosci faranno strage, violenteranno le donne randagie. Coro dei cacciatori. Guarda una donna, guarda una preda, facciamo piano che non ci veda. Guarda Languana, guarda il demonio, non si consegna per mercimonio. È una vivana, è una pagana, non è cristiana, la gran puttana. È una sagana, nulla si piega. Guardala, guardala, ecco la strega. Guarda Languana, guarda il demonio. È la nemica del matrimonio. Guarda che bella, è compiacente. La schiacceremo come un serpente. Anguana, creature malvagie, tornate al paese. Non maltrattatemi con queste offese. Piantate croci sulle nostre vette, perché voi temete le mie saette. Non sono cristiana o branco feroce, ma sulla mia cima io parlo alla croce. Andate a casa, tornate a valle, tornate a grugnire nelle vostre stalle. Coro cacciatori. Guarda Languana, guarda il demonio, non si consegna per mercimonio. Getta la rete, gettale il laccio, più non sfuggirà il nostro abbraccio. Dai, la prendiamo, tra poco è nostra, l'abbiamo in pugno. Sarà una giostra, guarda che bella, è compiacente. La schiacceremo come un serpente, il capobranco l'ha quasi presa, le sta davanti, sembra indifesa, è grande e grosso, le si avvicina. Aiuto, compari, c'è la slavina. Anguana. Sfidate il monte d'estate e d'inverno, andate cercando il vostro inferno, Io son lo spirito dell'arco alpino, tra forre e crepacci fino al Trentino. Al Cristo che muore io porto da bere, non sa che farsene delle preghiere. Impara pianura la legge dei monti. Il cibo è poco, ma serve per molti. Il cibo è poco, ma serve per molti. Ma serve per molti. Coro cacciatori. Con la slavina dietro le spalle, i cacciatori tornano a valle. Si salvi chi può, è troppo potente. Scappa, scappiamo, la donna serpente. Corri, corriamo, c'è alle spalle. I cacciatori ritornano a valle. I cacciatori ritornano a valle. I cacciatori ritornano a valle.